voglio andare oltre, vedere cosa c'è oltre al monte. Aprite tutte quelle porte, o le spaccherò colpi di nocche. È arrivato Don Chisciotte. Io voglio andare oltre, vedere cosa c'è oltre al monte. Aprite tutte quelle porte, o le spaccherò colpi di nocche. Per me sei il sole che muove il mondo, e come lui ogni volta che ti vedo risorgo. Bella come l'alba di ogni nuovo giorno, sorriso sguardo, connubio perfetto, mare e tramonto. Attendo il tuo ritorno in ogni mio sogno, in maniera naturale, speciale, senza rendermene conto. Che nella lotta tra bene e male con te nulla è un problema, perché tutto già risolvo. Vorrei tenerti tra le mie braccia, accarezzarti i capelli, lasciare di me una traccia, assaporare i momenti belli. Sdraiato sotto un albero col sole che brucia le anime, tristezza, amarezza saranno sul suolo ed anime. Vorrei viaggiare con te su candide nuvole, lasciare la vita terrena fatta di cose stupide, nutrendoci solo di ciò che l'anima può assumere. Dovrò trovare un senso prima che tutto si possa concludere. Fiore che ho raccolto, sei da proteggere. Il mio cuore nel tuo volto, tu nel mio ci hai saputo leggere. Leggere come farfalle, sappi che io non ti volterò le spalle. E non ci si può affezionare in poco tempo tutte balle. Bisogna guardarle le persone per amarle. Per capire il mio affetto conta tutte le stelle. Libertà, unico amore, e siamo schiavi delle nostre scelte. Imprigionati nelle nostre celle, con la paura del pensiero altrui, contiamo gli angoli di perle. Invece io te, e senza di gioia pura, ti proteggerò tra le mie braccia sicura. Ti guardo sorridere, il mondo acquista lucentezza. Io pervasa nel profondo da gioia e dolcezza. I miei